Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Elezioni in Friuli Venezia Giulia, più di un avente diritto su tre ha votato nel primo dei due giorni a disposizione. Ieri l'affluenza è stata del 35%, questa mattina seggi riaperti alle 7 fino alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede a Forgaria, dove c'è un unico candidato a sindaco, è stato raggiunto il quorum. Un violento incendio è scoppiato in serata in un'azienda agricola alla Tisana, distrutto un capannone usato come deposito di macchinari e attrezzature. I danni sono ingenti, ma non ci sono stati feriti. Accoltellamento a Udine, un giovane di 25 anni è rimasto ferito da un'arma da taglio al culmine di una lite in un'abitazione, in fuga l'aggressore. Il Friuli Venezia Giulia, grande protagonista a Vinitaly, alla rassegna veronese, oltre 400 vini a rappresentare il territorio. Partenza simultanea in oltre 30 città italiane per la 38esima edizione di Vivi Città, che a Gorizia ha visto l'unico percorso transfrontaliero della manifestazione con un ampio passaggio a Nova Gorizia. Con l'arrivo della bella stagione, riaperta al pubblico Villa De Claricini Dorpacher, storica dimora seicentesca alle porte di Cividale, un'occasione per scoprire la storia dell'edificio e per passeggiare nel suo giardino. Calcio, l'Udinese con diversi assenti travolta Bologna, perde 3-0 e lascia Felsine l'ottavo posto che in Serie C. Il Pordenone non va oltre lo 0-0 contro la Pro Patria ed è ora terzo, finisce in parità per 1-1 anche la sfida salvezza fra Triestina e Piacenza, con le alabardati che evitano la sconfitta solo allo scadere contro una formazione ridotta in 9 uomini. Nel basket, vittoria all'ultimo respiro della Pallacanestro Trieste contro la corazzata Virtus Bologna dopo una grande rimonta. In A2 la PU Udine esordisce nella fase orologio con una netta vittoria contro Piacenza, ottenendo l'ottavo successo consecutivo al Carnera. Le 7:20 minuti, buongiorno da Giorgio Bearz e Daniele Lettigi in studio per condurre questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia del 3 aprile. In apertura diamo uno sguardo alla situazione meteo con le previsioni per oggi. Il cielo è poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate poco fa, a Trieste ci sono 9 gradi, il vento soffia a 59 km orari da est-nord-est Bora con raffiche che nella notte hanno raggiunto gli 85 km orari. Pordenone 8 gradi, Udine 9 gradi e 5 decimi, a Gorizia 10 gradi, a Piancavallo e Sappada 0 gradi, a Tolmezzo 2 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 3 gradi, a Talvisio 5 gradi, sul Monte Lussari meno 4 gradi, sullo Zoncolan 5 decimi di grado sotto lo zero, a Lignano 9 gradi e 5 decimi, a Grado 11. Ecco le previsioni per oggi. Al mattino cielo poco nuvoloso con possibili nubi basse nel Tarvisiano. In giornata cielo in prevalenza sereno su tutta la regione. Soffierà vento da moderato a sostenuto da nord-est, anche forte in quota, specie su Alpi e Prealpi Giulie. Sulla costa soffierà vento di bora o grecale da sostenuto a forte ma incostante, con probabili raffiche intorno ai 90-100 km orari a Trieste sul Carso, specie in serata. In primo piano dunque il voto per l'elezione del Presidente della Regione, del Consiglio regionale, per il rinnovo di 24 amministrazioni comunali, fra cui Udine e Sacile. Più di un avente diritto su tre ha votato nel primo dei due giorni a disposizione. Dopo l'intera giornata di ieri, questa mattina i seggi sono stati riaperti alle 7 e lo rimarranno fino alle 15. Subito dopo ci sarà lo spoglio delle schede, a cominciare dalle regionali, quindi a seguire le amministrative, le comunali. L'ultimo dato sull'affluenza alle urne è quello di ieri alle 23 e si attesta al 35%. Il dato è sostanzialmente in linea con le ultime regionali svolte su due giorni, quelle del 2013, quando il primo giorno si era chiuso con un'affluenza del 35,15%. Il risultato finale alla chiusura dei seggi allora fu di poco superiore al 50%, un dato molto simile a quello del 2018, quando si votò solo di domenica. Le comunali tirano sul dato. Nelle uniche due città in cui è possibile il ballottaggio tra le 24 amministrazioni al voto, alle 23 a Udine l'affluenza è stata del 43,33%, a Sacile del 41,89%. Nel dettaglio, per quanto riguarda le circoscrizioni, a Trieste ha votato finora il 30,4% degli iscritti, a Gorizia il 33,7%, a Udine il 38,2%, a Pordenone il 34,6%, a Tolmezzo il 33%. A Forgaria, nel Friuli, dove c'è un unico candidato a sindaco, Pierluigi Molinaro, è stato raggiunto il quorum. Alle 23 hanno votato 815 persone su 2.322 aventi diritto. La quota necessaria per legge si attesta a 723 voti e per vincere il candidato deve raggiungere 362 voti validi. Un altro dato fatto interessante che a Sauris, dove anche lì c'è un unico candidato per raggiungere il quorum, 163 voti, devono recarsi alle urne ancora 7 elettori. Alle 23 di ieri sera hanno votato 156 persone su 521. I dati vengono forniti dal servizio elettorale della regione e sono consultabili sul sito ufficiale sempre della regione, www.regione.fvg.it. Il prossimo dato sull'affluenza sarà dato oggi alle 15, subito dopo la chiusura dei seggi. E la nostra redazione seguirà per tutta la giornata i risultati delle elezioni con una serie di dirette speciali alla radio e alla TV. Ecco qui quando andranno in onda. Due trasmissioni speciali, telegiornali e giornali radio dedicati, la copertura in diretta su web e social. Oggi una giornata dedicata alle elezioni sui canali informativi della TGR. Dalle 14.55 due ore di diretta nazionale su Rai 3, con i primi exit poll per le regionali, le proiezioni e i commenti con ospiti e collegamenti diretti. Alle 19.35 un'edizione del TG con i primi dati dei 24 comuni al voto. Alle 22 uno speciale a diffusione regionale sulla terza rete bis, canale 810. 10 del digitale terrestre, con altri collegamenti, i dati delle regionali e i numeri dei comuni. Tutte dedicate alle elezioni anche le nostre edizioni del GR a partire dalle 15 fino al mattino dopo e l'edizione di domattina di Buongiorno Regione. Le elezioni in diretta oggi e domani dalla TGR. La cronaca. Un violento incendio è scoppiato nella serata di ieri, 2 aprile, nel capannone dell'azienda agricola Ronc di via Precenico 30, alla Tisana. Non ci sono stati feriti. Le fiamme, visibili a chilometri di distanza, sono divampate intorno alle 19.15. Il capannone di 2.000 metri quadri, che veniva usato come deposito di macchinari e attrezzature agricole, è andato completamente distrutto. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di La Tisana, quelli di Udine con due autobotti, i volontari di Lignano, Codroipo, San Daniele e una squadra da Gruaro. I vigili del fuoco hanno portato in salvo un cane che era nel capannone e messo in sicurezza un camper, un'auto e un furgone. Terminata la fase di emergenza, il lavoro è proseguito a lungo durante la notte ed è ripreso questa mattina per la messa in sicurezza dell'azienda. Andati distrutti tra gli altri due veicoli, un trattore e altre attrezzature agricole. I danni sono ingenti e ancora ignote le cause del rogo. A dare l'allarme sono stati i proprietari dell'azienda agricola che abitano a poche decine di metri dal capannone andato a fuoco. La casa non è rimasta coinvolta nel rogo, ma i residenti sono stati allontanati per motivi di sicurezza. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme arrivassero a un serbatoio di gasolio che si trovava proprio accanto al capannone. Un uomo di 30 anni è stato ferito con un'arma da taglio al culmine di una lite con un'altra persona avvenuta ieri pomeriggio a Udine in un'abitazione in un condominio di Viale Venezia. Il trentenne ha riportato una ferita importante a una mano e dopo essere stato soccorso dagli operatori sanitari è stato portato all'ospedale del capoluogo friulano. Non è comunque in pericolo di vita. Pare che i due si conoscessero. L'aggressore, che secondo alcune testimonianze sarebbe un uomo di nazionalità straniera, è fuggito e attualmente è ricercato dalle forze dell'ordine, che stanno anche cercando di ricostruire le cause e la dinamica dell'episodio. 100 sfumature di Unione Europea. Si intitola così il convegno di due giorni, oggi e domani, coorganizzato dal Network Transform Europe e dalla CGIL di Trieste, dedicato ad analizzare lo scenario europeo alla luce dell'attuale fase geopolitica e dei rapporti internazionali, con un focus particolare proprio sul porto di Trieste. L'evento inizia alle 10.15 all'hotel di Corso Cavour. Abbiamo chiesto al segretario della CGIL di Trieste, Michele Piga, di illustrarci i temi di fondo del convegno. Abbiamo coorganizzato con il Network Transform Europe ed uno studio elaborato da molti studiosi europei rispetto ai rapporti tra l'Europa centrale, l'Europa meridionale, quella del Baltico e quella balcanica. Lo coorganizziamo perché siamo ovviamente interessati agli sviluppi politici e economici europei in uno scenario geopolitico in trasformazione. L'elenco dei partecipanti e dei panel è molto lungo, ci può anticipare appunto alcuni dei temi principali e degli ospiti che parteciperanno a questi due giorni? Il primo e il secondo giorno guardano molto agli scenari dell'Europa, come le dicevo, del Mediterraneo, del Baltico e dei Balcani, con uno sguardo da sotto il profilo politico e dei modelli economici nei vari paesi europei. E noi ci siamo concentrati su Trieste sul tema del governo pubblico, dei rapporti tra porto e regione e città. I principali attori nel nostro convegno, quello organizzato dalla CGIL, sono Zeno D'Agostino, ci sarà presente anche il presidente di Confindustria Alto Adriatico, proprio perché pensiamo che un tema da osservare nell'ambito della trasformazione del ruolo dei porti sia quale rapporto con l'industria, con la nuova industria, possa avere in questo scenario di cambiamento. Invece qual è il ruolo che il sindacato vuole assumere riguardo a queste sfide? Noi siamo molto interessati a un tema. Noi abbiamo osservato come il governo dell'autorità portuale, che è pubblico, ha consentito di trasferire rispetto al territorio e ai lavoratori ricchezza da un punto di vista dell'internalizzazione dei servizi intermodali, dell'internalizzazione dello sviluppo dei servizi di manodopera, abbiano portato ricchezza su questo territorio. Ha preso il via a Verona Vinitaly, la grande manifestazione dedicata al mondo dei vini e dei distillati che proseguirà fino a mercoledì. Oltre 400 i vini del Friuli Venezia Giulia, con Ribolla Gialla e Friulano, protagonisti al padiglione della regione. Il servizio da Venezia è di Ivana Godnik. Oltre 400 i vini del Friuli Venezia Giulia presenti alla 55esima edizione del Vinitaly, 90 quelli ospitati nel padiglione dedicato alla regione, poi altri 21 tra grandi realtà produttive e piccoli vignaioli dislocati nell'area fieristica a comporre un mosaico di grande qualità, specie con i bianchi. 400 incontri in programma fino a mercoledì alla Fiera di Verona tra degustazioni e presentazioni, perché al Vinitaly nel 2023 sono in netta crescita i compratori esteri provenienti dai 5 continenti alla ricerca sempre più del vino italiano. Ben si inserisce in questo contesto l'offerta dell'Enoteca regionale, che riesce a far conoscere le varietà di tutte e quattro le province. Banche sotto pressione è il tema di stretta attualità che sarà affrontato in un incontro con l'analista finanziario indipendente Vladimir Biasia, organizzato dall'Università di Udine nel campus di Pordenone. Inizio previsto alle 12. Partenza simultanea ieri in oltre 30 città italiane per la 38esima edizione di Vivi Città, che a Gorizia ha visto l'unico percorso transfrontaliero della manifestazione con un ampio passaggio a Nova Gorizia. Oltre 600 partecipanti per Vivi Città Gorizia, ad aprire il serpentone il gruppo cittadino del Nordic Walking. Due percorsi, 5 e 10 chilometri, sui nuovi tracciati delle ultime piste ciclopedonali realizzate dal gruppo europeo di cooperazione territoriale tra Gorizia e Nova Gorizia. Ho aderito a questa manifestazione come un grande messaggio di pace che accomuna tutti quanti noi che abbiamo vissuto in questo territorio, e io ricordo da piccola c'era ancora il confine, e spero tanto che in altri territori dove oggi la pace non c'è si possa un giorno partecipare ad un incontro così di marcia tutti insieme. Profumo di primavera nei campi agricoli della Rosa di Gorizia e squarcio panoramico sull'Isonzo dal ponte di Salcano. Noi come Andos, donne operate al seno, siamo venute qui in tante. Infatti abbiamo vinto il premio per il gruppo più numeroso, perché siamo convinte che l'attività fisica è salute. E per la prima volta Vivi Città col fiato sospeso, la nuova ciclopedonale sull'Isonzo sente la massa dei podisti e reagisce con un po' di oscillazioni da vibro vertigine. La nuova passerella è molto bella perché al centro traballa molto ed è divertente, è una bella esperienza da fare. Enzo Dall'Osto, presidente del Comitato Goriziano dell'Unione Italiana Sport per Tutti, che ha organizzato la manifestazione. Gorizia e Nova Gorizia stanno vivendo questo momento grosse trasformazioni importantissime per le due comunità. Vivi Città vuole essere proprio questo, partecipare ed essere consapevoli e coscienti di queste trasformazioni incredibili. Gorizia, Maurizio Merva, RTGR Friuli Venezia Giulia. Con l'arrivo della bella stagione è stata riaperta al pubblico Villa de Claricini d'Orpacher, storica dimora seicentesca alle porte di Cividale, un'occasione per scoprire la storia dell'edificio e passeggiare nel suo giardino. La villa è sorta intorno alla metà del XVII secolo dalla nobile famiglia, trasferitesi da Bologna in Friuli alla fine del 1200. Un immobile dove in ogni stanza si conservano pregevoli collezioni d'arte, affreschi, dipinti, mobili, arredi, stampe, disegni, fotografie, documenti d'archivio, libri, strumenti musicali che raccontano la storia plurisecolare della proprietà, della famiglia e del territorio. La figlia Giuditta, ultima proprietaria della villa di Bottenicco, istituì per volontà testamentaria la fondazione. Olindo Cernoia, presidente formazione De Claricini d'Orpacher. Questa è una villa domenicale che è stata classificata tra le ville venete e quindi una villa che si presenta al pubblico grazie all'attività della fondazione con tutti i suoi arredi seicenteschi, settecenteschi, ottocenteschi, ma soprattutto anche con dei giardini, il giardino storico, il giardino all'inglese. E la particolarità è che questo giardino è stato classificato al 10° posto a livello nazionale nell'ambito del piano di rigenerazione, il famoso PNRR. Tra i tanti libri presenti nella biblioteca, anche uno dei più antichi codici danteschi friulani, denominato Codice Claricini. Davanti alla villa si apre un bel giardino all'italiana, racchiuso da balaustre. Il pavimento centrale di pietra divide aree verde ornate da arbusti, statue e fontane. Infine, oltre la balaustra, si sviluppa un vasto parco di circa 2 ettari con prato e bosco. Bottenicco di Moimacco, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E alle 7.34 minuti apriamo l'ampia pagina dello sport con il calcio in Serie A nell'anticipo di ieri all'ora di pranzo. Pesante sconfitta per l'Udinese, decimata da diverse assenze, che perde a Bologna con un secco 3-0 e viene sorpassata in classifica proprio dai Felsinei all'8° posto. Allo stadio Dall'Ara l'Udinese interrompe la sua striscia positiva di 2 pareggi e altrettante vittorie e finisce KO con il Bologna. I presenti fanno rimpiangere gli assenti, Beccao, Perez e Wallace squalificati, oltre a Success, infortunato dell'ultima ora. La giornata felice dei rossoblù inizia al 3° minuto con la rete di Posch, destro potente da fuori area, che sorprende Silvestri. Il raddoppio è di Moro, favorito dal recupero di Barrow su Lovric. I bianconeri, nel giallo della trasferta emiliana, fanno possesso, rischiano di riaprirla grazie al colpo di testa di Ziegler, ma c'è sempre Posch sulla strada dei friulani. Prima dell'intervallo la conclusione deviata di Samardžić, che promette una ripresa d'orgoglio dell'Udinese, e invece il 3° gol del Bologna di Barrow, 4 minuti dopo il rientro in campo, chiude la gara. Il Bologna a quota 40 scavalca in classifica l'Udinese, ferma a 38. Sentiamo la voce di Adam Masina, difensore dell'Udinese. Ci abbiamo preso 2 gol pronti via, il piano partita è saltato quasi immediatamente. Questo è il calcio, lo sappiamo, la Serie A, appena concedi un mignolo ti prendono la mano, e in questo momento qua dobbiamo essere consapevoli di questo, ritornare in carreggiata e sicuramente torneremo a offrire una grande performance contro il Monza. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. In Serie C finiscono entrambe in parità le partite delle rappresentanti regionali. Il Pordenone non va oltre lo 0-0 in trasferta contro la Propatria. Finisce pari, ma per 1-1 anche la sfida salvezza allo Stadio Rocco fra Triestina e Piacenza. Il Pordenone non va oltre il pari per 0-0 in trasferta contro la Propatria. Primo tempo senza grosse emozioni, al netto di una punizione di Burrai deviata da Candellone e bloccata dal portiere. Nella ripresa i neroverdi accelerano e vanno vicini al gol con Burrai, la cui conclusione trova la decisiva deviazione in corner di Del Favero. Il portiere dei Lombardi si ripete anche sulle diverse conclusioni di altri attaccanti neroverdi. Una punizione di Edera finisce invece di poco fuori, lambendo il palo. Finisce 0-0 e ora il Pordenone è terzo con 59 punti, scavalcato dalla Pro Sesto che ha battuto il Vicenza. A condurre è sempre la Feralpi Salò, sempre più lontana, a quota 65. Solo un punto anche per la Triestina nella sfida interna contro il Piacenza, che valeva un bel pezzo di play-out. Gli alabardati si sono trovati anzi ad inseguire dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con gli emiliani più propositivi nella prima parte e i giuliani che sono venuti fuori alla distanza. In apertura di ripresa il Piacenza è passato in vantaggio grazie ad un tap-in da distanza ravvicinata di Chierico, che ha ribadito in rete una corta respinta in super parata di Matosevic su una conclusione di Morra. Reazione alabardata favorita dall'espulsione di Cosenza per somma di ammonizioni, ma poco lucida e anche sfortunata prova ne sia il palo centrato da Malomo a 9 minuti dalla fine. La rete del pareggio, dopo una seconda espulsione a carico del Piacenza, arriva solo allo scadere. È Piacentini che mette dentro la palla sfruttando un cross sotto misura di Mbakogu. Arriva solo un punto. Andrea Bardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al basket, in A1 la Pallacanestro Trieste ha vinto l'Allianz Dome contro la Virtus Bologna per 80-78 in un finale al Cardio Palma. Per la squadra di Legovic è stata una delle vittorie più belle finora della stagione. La salvezza ora è più vicina con 4 punti di vantaggio sulle ultime. L'impresa è servita. Trieste batte la capolista Virtus Bologna e fa un passo verso la salvezza rimettendo un po' di cose a posto in una classifica dove sotto si comincia a correre e dove ogni sconfitta diventa dramma. La squadra di Legovic vince però non solo perché quella di Scariolo arriva ad un tour de force di 12 partite in 30 giorni, 4 negli ultimi 7, che porta in dote 6 infortunati e una stanchezza che nel finale sarà decisiva. I biancorossi sono infatti bravi a ritrovarsi dopo un periodo complicato e rimanere a contatto fino alla fine, nonostante le prestazioni balistiche tutt'altro che eccezionali di Davis e di Bartley. Bologna prova a far sua la partita nell'unico modo che ha a disposizione, approfittare delle debolezze di Trieste in avvio e prendere il largo. Un piano che funziona fino all'ingresso di Ruzier, fresco ex, che si prende la squadra sulle spalle con 7 assist in 11 minuti e ispira una rimonta da almeno 10 al 45 pari. A banchettare sono i lunghi Terry e Spencer, ma si vedono anche i tiratori Campogrande e l'ultimo arrivato Stumbris, che firma appunto il pari. Nella ripresa è un punto a punto in cui la squadra giuliana gioca di voglia e di energia e la Virtus di esperienza. Terry segna anche da tre, ma è decisivo in ogni angolo del campo. Così Trieste resta a contatto puntando in difesa le gambe molli di Bellinelli e le Vunere a corto di energie segnano l'ultimo canestro a 5 minuti dalla fine. Da quel momento solo tiri liberi. L'ennesima schiacciata riporta il pari, quindi Davis finalizza le giocate decisive con 2 canestri. L'ultimo con un piede sulla riga da 3 vale il sorpasso e la vittoria. All'ultimo secondo, infatti, dopo l'1-2 di Bartley dalla lunetta, Bellinelli manca il canestro beffa. Finisce 80-78, 19 punti per Terry. Per la salvezza servono ancora 2 vittorie nelle ultime 6. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. In Serie A2, l'APU Old Wild West Udine inizia la fase a orologio battendo la Sigeco Piacenza per 90-80 e ottenendo così l'ottavo successo consecutivo al Palacarnera. Nonostante un avvio decisamente sottotono, i friulani sono riusciti ad avere la meglio grazie a una grande reazione nell'ultimo quarto, con un parziale di 32-12. Tra i migliori fra i padroni di casa, Brisco, miglior marcatore con 25 punti, e Marco Cusin, autore di 11 punti e una valutazione complessiva di 19. Sabato la Gesteco Cividale si era imposta agevolmente sull'Urania Milano per 89-62, sempre nella prima partita della fase a orologio. Nella A2 femminile sconfitta ieri la futurosa Trieste sul parquet lecchese della Limonta Costa Masnaga per 81-55. L'APU Libertas Udine aveva battuto sabato Vicenza per 58-53. In classifica Udine è quarta con 38 punti, Trieste è nona a quota 18. Pallavolo, la Tinet Prata ottiene l'ennesima vittoria stagionale sconfiggendo Lago Negro per 3-7-1, parziali 22-25, 25-15, 27-25, 25-14 e condannando sempre Lago Negro alla retrocessione. La Tinet ottiene così la quinta posizione al termine della regular season, un risultato di grande prestigio per una neopromossa e il miglior risultato di sempre per Prata, che ora affronterà i playoff la quarta classificata a Santa Croce. Ginnastica artistica, la nazionale italiana junior vince il trofeo Città di Jesolo, gara internazionale svoltasi nel weekend. Nel gruppo Emma Puato e Benedetta Gava dell'Artistica 81 Trieste, per la prima volta in maglia azzurra. Gava conquista anche l'oro al volteggio nella finale individuale, dove Puato conclude al quinto posto. Ottima prestazione delle due ginnaste che insieme al team italiano hanno trionfato con 153.267 punti, staccando di molto le atlete giapponesi giunte seconde e la Germania terza. A Tolmezzo, round di apertura del campionato italiano di trial, dove hanno gareggiato i migliori specialisti delle due ruote artigliate in Italia, davanti a un folto pubblico di appassionati. Funamboli del motociclismo, salti di precisione millimetrica, adrenalina e spettacolo. Questi gli ingredienti della prima tappa stagionale del campionato italiano di trial ospitato a Tolmezzo, con oltre 100 piloti che si sono sfidati nelle 12 zone di gara a ridosso del centro cittadino. Prove in cui conta l'abilità del pilota e non la velocità. L'obiettivo è il superamento in un tempo massimo imposto di una serie di ostacoli naturali senza commettere errori e senza mettere i piedi a terra. Protagonista assoluta il pluricampione italiano Matteo Grattarola, che con una sola penalità è salito sul gradino più alto del podio nella categoria TR1. Sofferta fino alla fine, però dai, il Tolmezzo mi ha sempre portato fortuna, quindi è un bellissimo posto, sono molto contento di essere stato qui. Migliore tra i piloti regionali Giacomo Brunisso, giunto settimo nella classe TR2. Per il rider di Pagnacco, un buon risultato ottenuto su un percorso molto tecnico e selettivo. La difficoltà sta anche nel fatto che ci sono vari ambiti, vari terreni, e dunque bisogna adattarsi a ognuno. Per esempio adesso siamo sotto il bosco, quindi è un terreno un po' diverso dalle prime zone che erano nel torrente. Ottima l'organizzazione del Motoclub Carnico, che ha gestito più di 500 persone provenienti da tutta Italia, garantendo la sicurezza dei piloti e del pubblico presente nel rispetto dell'ambiente. Walter Marcon, organizzatore. è lo sport motociclistico a più basso impatto ambientale. Una moto alla volta in una zona controllata non lunga più di 70-80 metri e di conseguenza tutti i trasferimenti vengono sulle strade asfaltate. Tolmezzo, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Corsa, si è disputata ieri la prima prova del Trofeo Trieste, storica manifestazione podistica articolata in 8 prove su strada, pista e campestre, più una prova con punteggio. 350 atleti hanno partecipato alla gara di 8,5 km che ha aperto la serie di podistiche della FIDAL per il Trofeo Trieste. Il percorso, tracciato dall'ASD San Giacomo, è partito dal campo di Campanelle sulla ciclabile Cottur. 4 km 250 in salita con parziale sterrato fino alla vecchia stazione di Mocò e poi rientro in discesa. Il più veloce Daniele Torricco in 28 minuti e 29, seguito da Felipe Ricci 28 e 47 e terzo Riccardo Sterni in 28 minuti 55. Prima donna è anche la concorrente più giovane, Giulia Elisi, 35 e 24 il suo tempo. La ciclabile Cottur si rivela quindi una grande opportunità per la SD San Giacomo, che per decenni organizzava la corsa lungo le vie del Rione da cui prende il nome. La ciclabile intanto ci porta fuori da tanti problemi che fare in città, diventa un problema molto molto grave, tante persone, la sicurezza, c'è un mondo diverso fuori, invece qui con quei due o tre incroci poi risolviamo il problema. Un percorso scelto anche da diversi signori, concorrenti più anziani, 78enni Fabio Fratnik e Alessandro Poloiaz, tra le signore Silvana Zemanek di 74 anni. Il Trofeo Trieste prosegue il 23 aprile con i 10 km della Muia Longa sul Mar, quindi fino a metà ottobre previste altre 6 gare nell'ex provincia di Trieste organizzate da altrettante associazioni sportive. Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Le discriminazioni di genere nel mondo dello sport, tra sessismo e disparità di trattamento, saranno al centro di un incontro organizzato dall'associazione Tesis di Pordenone, che oggi, alle 8.30 all'Auditorium Concordia e poi alle 11 al Teatro Verdi di Maniago, vedrà confrontarsi, davanti a un pubblico di studenti, il presidente del CONI regionale Giorgio Brandolin, Valentina Turisini, atleta olimpica triestina argento nella carabina ad Atene 2004, e Claudia Giordani, vicepresidente del CONI nazionale e medaglia d'argento in slalom speciale ai giochi olimpici invernali del 1976. A lei abbiamo chiesto quali sono le discriminazioni ancora presenti nel mondo sportivo e come affrontarle. Il mondo sportivo è innanzitutto una grande opportunità, soprattutto per ragazze e ragazzi, i giovani di oggi e di domani. È una grande opportunità proprio perché, tra le tante cose, favorisce l'eliminazione delle discriminazioni. Da sempre lavora perché tutti insieme si possa crescere all'insegna dei valori olimpici. Ma ci sono disparità di trattamento tra uomini e donne, che è un po' l'argomento di cui si parlerà nel convegno di oggi? Il percorso dello sport femminile è stato lungo, è tuttora lungo. Ci sono sicuramente delle situazioni in cui la cosa è più evidente, ma bisogna innanzitutto essere consapevoli dei tanti traguardi che sono stati raggiunti, e non solo dal punto di vista sportivo, quindi non solo a livello di risultati, record, medaglie, ma proprio nella conquista dei diritti e soprattutto nel numero delle presenze femminili all'interno del mondo dello sport. Cosa si può fare per migliorare ancora la situazione? Sono tante le modalità che si potrebbero intraprendere, tante le attività, le iniziative. Fortunatamente è un tema che è molto attuale, se ne parla, e insomma l'incontro di oggi è un esempio. Tante sono le indicazioni che vengono proprio dagli organismi sportivi. Le opportunità ci sono, si può fare molto, tutti insieme. L'importante è capire che le cose possono ancora essere migliorate insieme, uomini e donne, e che un punto di partenza è quello di rendere più consapevoli le stesse ragazze e gli stessi ragazzi, quindi i giovani che sono il futuro di domani. Cominciamo la nostra rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo di Trieste. Il giorno del verdetto, oggi il nome del governatore, ieri affluenza a quota 35%, urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio, oltre 1 milione al voto in Friuli Venezia Giulia. La regione si mostra avvinita lì, il bere bene va difeso. Stop a messaggi sbagliati, i produttori dicono la nostra cultura è antica, diciamo sì al bere consapevole. Addio a polveri e odori, la rinascita di Servola dopo lo stop alla feriera, case ristrutturate, giardini curati, richiesta di alloggi in salita, come anche i prezzi. Un'altra vita, dicono i residenti, si respira ora un'aria nuova. Il park di Via Pietà congela i prezzi per i dipendenti Asugi, congelate fino al 30 giugno le tariffe della convenzione riservata a chi lavora al maggiore, poi un nuovo piano. 20 anni di bar Knulp, tra libri, brindisi e serate a base di jazz in via Madonna del Mare, uno spazio senza confini nel centro storico di una città che di confini ne ha fin troppi, lo definiscono i gestori. Il calcio, la Triestina evita il KO in extremis e mantiene il distacco sulla Cenerentola Piacenza. Nel basket Trieste ruggisce contro la Virtus, la salvezza è ora vicina. Regionali, crolla l'affluenza, è il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine. Al centro, la fotonotizia è sulla sconfitta dell'Udinese, perso a Bologna uno scontro diretto per l'ottavo posto. Accanto, un boxino sul basket, la vera Apu, quando meno te l'aspetti. Tra i richiami di cronaca, urla, litigi e coltellate, condominio in ostaggio degli inquilini violenti, l'ultimo episodio ieri con un uomo ferito a una mano. Sventrata un'altra auto per portare via i pezzi a Pasean di Prato, danni per 70.000 euro. Infine, un richiamo sul Vinitaly con i produttori friulani che dicono basta a messaggi sbagliati sul vino. Le pagine della cronaca cittadina titolano sul dato dell'affluenza in città, arrivata al 45%. Regione, oggi il nuovo presidente, così invece l'apertura del dorso friulano del Gazzettino. Calano i votanti, ma non c'è stato il temuto astensionismo selvaggio. A centropagina, l'Udinese che subisce il suo peggior KO e la vicenda del giovane morto in un laghetto a Porcia. Un richiamo poi a Cividale e le Valli del Natisone che fanno squadra per i bandi europei e un altro al piano parità della Regione, dei baby pit stop per cambiare i bambini. Infine, in basso, ancora lo sport. Old Wild West parte bene con Piacenza e poi una notizia di biathlon. La squadra regionale di Coppa Italia guadagna 2 pettorali da leader con Cappellari e Lozza. Dal piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone aumentano del 20% le famiglie che bussano gli empori solidali. Aumentano le tessere erogate nei 4 supermercati della Caritas. Il Covid e la guerra in Ucraina aggravano la situazione. Partita da 8 milioni per il nuovo appalto delle mense scolastiche, dal 2016 il servizio a capo della RT Cheer Food, si apre una nuova procedura ormai scaduta, la durata del contratto di affidamento prorogabile per ulteriori 3. Tradizionale torneo in piazza Turiaco di tiro all'uovo, Petean torna a vincere, l'uovo sodo colpito con le vecchie 100 lire. Go 2025 è una grande occasione, ma la città è stanca. L'analisi del creatore della Biolab, qui i cambiamenti visti come seccature. L'azienda regge e continua a svilupparsi. Potrebbe tornare il festival vegetariano. C'è il laser per livellare la spiaggia di Grado. La GIT recupera sabbia per 6.000 metri cubi. Infine, premiato a Vinitaly il potatore Simonit. E oltre ai 400 al via Vivicittà, la corsa che unisce le Gorizie. Sotto il titolo sulle regionali, il dorso di Pordenone del Gazzettino dedica la fotonotizia al calcio. Pordenone, un pari che vale come una resa, solo un punto per i ramarri a Busto Arsizio. Sempre a centropagina, la cronaca. Voleva un figlio e una nuova casa, parla Mattia, il fratello del 29enne morto nel laghetto a Porcia. I richiami di cronaca sono per la discarica scoperta a San Quirino, raccolte 2 tonnellate di rifiuti, e per l'episodio avvenuto in un supermercato di Pordenone, ruba il cibo e prende a pugni una guardia. A fondo pagina ancora sport, Kions 4 gol che profumano di Serie D. Sull'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto, dopo il titolo sulle elezioni, la fotonotizia è anche qui dedicata al giovane morto a Porcia. La fidanzata di Moises nell'auto non si respirava più, ho pensato rimarrò qui. Tra i richiami di cronaca, il custode denuncia troppi furti nel cimitero di Sacile, chiuse le indagini sui rapporti Alpi Aviation Cina. A fondo pagina i titoli sui risultati di Udinese e Pordenone. Le pagine della cronaca cittadina titolano invece sulla questione rifiuti. Domenica col pieno di immondizia, avvisi contro i pendolari dei rifiuti. Si svolgerà questa mattina all'Isis Galilei di Gorizia dalle 8.30 alle 11.30 la prima fase dell'edizione 2023 del progetto RoboCup, un concorso per creare progetti con software di simulazione 3D e programmazione diretta di un braccio robotico, cui partecipano 44 scuole dall'Italia e dalla regione. Il concorso si completerà sabato presso la sede della ABB di Milano con fase finale e premiazione, in cui le 44 scuole saranno rappresentate da un docente e 2 studenti, mentre il resto della squadra parteciperà alla competizione con un collegamento da remoto. E sempre stamattina alle 11 nel Palazzo delle Poste di Trieste verranno inaugurate due mostre, l'arte del mangiare sano nel salone al primo piano e l'esposizione filatelica dedicata all'aeronautica militare in occasione del suo centenario, nello spazio filatelia di Via Galatti. Le musiciste del duo Dragonfly saranno le protagoniste dell'appuntamento di stasera della Società dei Concerti di Trieste, con un programma di composizioni originali, capolavori della musica barocca, alle 20.30 al Teatro Verdi. Il Massimiliano Rolf Trio si esibirà invece alle 20.15 al CNULP di Trieste in Via Madonna del Mare, per il calendario dei concerti del Circolo Jazz Thelonious, con un programma dedicato al mondo musicale di Georg Gershwin. A 500 anni dalla morte arriva in sala, solo per tre giorni da oggi a mercoledì, Perugino, Rinascimento immortale, documentario che racconta la vita e l'opera del grande pittore del Rinascimento umbro, al Visionario di Udine, alle 15.45 e alle 19.20. Continua l'appuntamento con Grindhouse, il festival diffuso che celebra il miglior cinema europeo di genere. A Cinema Zero di Pordenone arriva stasera alle 20.45 The Innocence del norvegese Eskil Vogt. E chiudiamo con le elezioni in Friuli Venezia Giulia per il rinnovo del Consiglio regionale di 24 comuni. Più di un avente diritto su tre ha votato nel primo dei due giorni a disposizione. Ieri l'affluenza è stata del 35%, questa mattina sei giri aperti dalle 7 fino alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. La nostra redazione seguirà per tutta la giornata i risultati delle elezioni con una serie di dirette speciali alla radio e alla TV. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giorgio Bearz. Collaborazione tecnica di Viola Romanese, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Prossimo aggiornamento con il giornale radio alle 12.30. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.